Radio 24 Reportage. Un cantiere chiamato Romania, di Anna Marino. Non si fermano i lavori a Bucarest, che 6 mesi fa aveva le strade impolverate e ora sfoggia una pavimentazione nella zona pedonale degna delle capitali europee. Non si ferma la corsa verso l'euro che arriverà nel 2014 dopo la cittadinanza europea ottenuta nel 1 gennaio 2007. Non si smette di costruire capannoni e case, non si smette di crescere nonostante la crisi e le tensioni sociali. Parola di Bogdan Aurescu, sottosegretario agli esteri rumeno. In generale, se consideriamo nel suo complesso l'economia rumena, e penso che sia così per tutte le economie europee, c'è un calo degli investimenti, di importazioni ed esportazioni. Ma è interessante notare che il livello degli investimenti in Romania non è sceso molto. Le compagnie straniere arrivano ancora nel nostro paese. Per esempio, il livello degli investimenti americani è ancora lo stesso anche quest'anno, il 2009, che è stato il più duro della crisi. Prima di essere colpita dalla crisi economica, la Romania ha vissuto una forte fase di espansione. Tra il 2000 e il 2009 ha registrato uno dei più alti tassi di crescita economica in Europa. Sono 28.000 le piccole e medie imprese italiane sul territorio e il nostro paese è il secondo partner commerciale del paese della nuova Europa, dopo la Germania. Le difficoltà finanziarie internazionali si sono abbattute sugli scambi commerciali con l'estero, calati con l'Italia del 35,2% e sulla crescita economica del paese, ma oggi la Romania è tornata competitiva, secondo Stefano Albarosa, presidente di un'impresa Romania, ai livelli, dice, di circa 5 anni fa, per 3 fattori. La crisi si è trasferita anche in Romania nel corso del 2009, dal dominio finanziario al dominio dell'economia. L'impatto è stato molto importante, la contrazione del PIL supererà in Romania il 7%. Gli effetti della crisi però sono stati anche positivi, e hanno aiutato la Romania a recuperare coefficienti di competitività che io credo molto importanti, in maniera particolare la svalutazione della valuta locale rispetto all'euro ha reso gli export più competitivi nell'ordine del 30%. Il problema della manodopera, che negli ultimi anni della crescita, 2007-2008, dava segnali di preoccupazione sia per la crescita del costo della manodopera in termini reali e sia per la disponibilità di manodopera, si è fortemente ridimensionato. E infine i valori immobiliari, che limitavano negli ultimi anni della crescita l'ingresso a nuovi investimenti, in speciale i Greenfield, si sono anche questi fortemente ridimensionati. Quindi la Romania torna ad essere, a mio avviso, all'inizio di quella curva di ascensione che ha caratterizzato il quinquennio 2004-2009. Quindi credo che sia il momento di saper guardare oltre il dito e vedere che, oltre al clamore di questa crisi economica che si sovrappone in Romania a questo momento di tensione legato al periodo preelettorale, quindi un po' di crisi politica, ci sono tutti i fondamentali per poter rivedere un periodo di crescita. Il calo degli investimenti è stato nell'ordine del 40%, il calo degli investimenti italiani è stato nell'ordine del 30%, quindi diciamo abbiamo decelerato meno di altri. In questo senso anche confermando la strategicità della partnership, ecco. Io credo che proprio perché per gli imprenditori italiani la Romania sia un sistema paese conosciuto, quando si conosce il sistema si riesce a guardare, diciamo, oltre a quello che può essere il clamore o la difficoltà del momento. Presente anche in forze il settore bancario, che ha attraversato insieme alle imprese italiane la crisi. Intesa San Paolo Bank è passata da 92 agenzie nel 2008 a 94 nel primo trimestre 2009, con un attivo nel 2008 di 718 milioni di euro. Marco Lucini, dirigente della banca, spiega come è stata affrontata la criticità e come sarà il rilancio nel futuro. Intesa San Paolo, posso dire con una punta di orgoglio, non ha mai fatto mancare il proprio apporto sia alle imprese italiane che internazionali che rumene in Romania, anche nei momenti di particolare crisi economica e soprattutto finanziaria, quindi quella intervenuta nell'arco di tempo fra settembre e gennaio. Dopo appunto questa parentesi negativa dei primi 6 mesi della crisi, il mercato finanziario si è fortunatamente risollevato. Oggi è più facile accedere al credito anche per le banche e di conseguenza anche per i clienti. Il settore delle infrastrutture è nevralgico per ripartire. Quello delle costruzioni è cresciuto del 26% negli anni precedenti, ma è sceso negli ultimi 8 mesi del 2009 del 13,3%. Ulisse Gheduzzi, imprenditore italiano che opera nel paese e titolare di InterDraw, racconta come è stato questo ultimo periodo da imprenditore in Romania nel settore delle costruzioni. Vivo in Romania da 12 anni. In 12 anni non è semplice in due minuti raccontare tutto. La difficoltà nell'ultimo periodo, chiaro, questa crisi finanziaria ci ha un po' coinvolto tutti. Ho una società di ingegneria, facciamo consulenze per imprenditori, investitori e siamo consulenti per le banche. La mia società ritengo che sia una mosca bianca, la crisi non l'ha sentita. Abbiamo avuto solamente due o tre clienti che hanno avuto qualche problema, quindi posso dire che sono un'eccezione. È chiaro che dobbiamo confermarci nei prossimi anni e ci sono i sensori perché sia così. Oggi chi è in Romania è una società solida che fa il proprio mestiere, non come è successo qualche anno fa che tutti facevano tutto. Ma c'è anche chi ha scelto la Romania come sede unica della propria attività, come Luigi Caverni, amministratore delegato e titolare del gruppo Manetwork, sempre nel settore delle costruzioni. 440 persone impiegate, 90 milioni di euro di fatturato nel 2008. È da 15 anni in Romania e ora affronta così il momento difficile per l'economia del paese. Una crescita continua, quest'anno stiamo in flessione anche noi, una flessione intorno al 30, ma sarebbe il 15 perché una parte della flessione è dovuta alla diminuzione del costo delle materie prime, quindi non è imputabile a un fatturato, chiaramente è imputabile solo alla diminuzione delle vendite dovuta alla diminuzione del costo delle materie prime. Di Romania in Italia si è iniziato a parlare soprattutto quando negli anni 90 il nord-est ha iniziato a delocalizzarvi le proprie imprese. Non solo, nel mese di dicembre si compiono 130 anni di relazioni diplomatiche con l'Italia, ma la presenza italiana è ormai integrata da tempo e gode di diritti costituzionalmente riconosciuti, come spiega l'onorevole Mircea Grosaru, rappresentante della minoranza italiana della Romania nel Parlamento romeno. Siamo circa 3.500 persone di origine italiana all'ultimo recensamento. Invece, considerando anche questi ultimi italiani che sono venuti in Romania per affari, possiamo dire che arriviamo a circa 200-250.000 italiani in Romania. Hanno i diritti di ottenere la cittadinanza romena, possono partecipare anche in elezioni locali, elezioni anche parlamentari, se prendono poi la cittadinanza romena. Però gli italiani si sentono molto molto bene in Romania, come anche noi romeni stiamo molto bene trattati in Italia. Non c'è solo l'economia. Per la Romania il 2009 è l'anno delle ricorrenze. Si contano i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino e si contano i 20 anni dal crollo del regime nel paese ex comunista. 20 anni fa cominciava il ritorno dei paesi ex comunisti nel mondo occidentale, lo ha dichiarato il presidente romeno Traian Băsescu. Se in Germania dell'Est, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia questo processo è venuto senza spargimento di sangue, ha detto, la Romania è stata l'unico paese in cui gli ex leader, ma anche quelli insediati dopo l'esecuzione di Ceausescu, ritennero giusto utilizzare delle formule propagandistiche per giustificare la presenza dell'esercito sulle strade e l'uccisione di oltre 1.600 romeni, ha dichiarato Băsescu. Dopo l'esecuzione della coppia Ceausescu, il 25 dicembre 1989, le autorità decisero che si doveva combattere infatti contro i terroristi. A 20 anni dal crollo del regime in Romania, dove ex esponenti comunisti o i loro parenti sono ancora nei partiti politici, nel Parlamento o nell'imprenditoria, non è chiaro, dice il presidente, chi erano i terroristi che sparavano contro la popolazione dopo la fuga del dittatore. Incertezza che si legge anche nelle parole di Mircea Vasilescu, direttore della rivista Dilemma Veche, da tradurre in italiano come vecchio dilemma. Purtroppo in Romania nell'opinione pubblica non c'è un grande feeling per questo anniversario. È strano che anche nell'ambiente politico non c'è un grande non c'è una buona apertura per questo argomento, anche se 3 anni fa il nostro presidente ha condannato ufficialmente il comunismo come illegittimo e criminale nel Parlamento, ha tenuto un discorso nel Parlamento. Quindi da un punto di vista politico credo siamo l'unico paese est europeo che ha condannato il comunismo in questi termini, però la condanna è rimasta così discorsiva e simbolica, e le conseguenze di questo atto di condanna non ci sono. Ci sono questi piccoli miti, come dire, ma guarda che Ceausescu ha costruito delle case per tutti, ha costruito la metropolitana a Bucarest, nei tempi di Ceausescu tutti avevano il lavoro, eccetera, eccetera. Certo che ci sono queste piccole leggende che non sono reali, però i nostalgici non rappresentano una corrente importante, notevole in Romania. Non è questo il problema. Il problema è della mancanza di un vero dibattito pubblico su quello che eravamo 20 anni fa e quello che siamo diventati. Dalla crisi è nato anche un momento difficile per la politica interna della Romania. Il 20 novembre si tengono le elezioni, è la prima volta dalla caduta del regime che un governo è in crisi. Sono forti le pressioni per le riforme che il paese richiede, dalle pensioni al settore amministrativo, condizioni anche per restituire i prestiti europei e internazionali che ha ottenuto per far fronte alla crisi.